Ma io sono in cantina. E ora ci sono quella capo in Giulia. Peggio vai te, comprati una cantina e te ne vai sotto. No, non ce ne cado qua, già sto bene. Tutto a posto. Dai che c'è caldo fuori, maledizione. Fuori c'è da scoppiare qua, capito? Però già in cantina va meglio, si sta bene. Guarda, c'ho un termometro qua, vediamo un po', mi sembra. Sono 19 gradi. Vedi, qua ce n'è 22. No, io non abito più all'ultimo, abito al secondo, quindi è molto più fresco. Si sta bene. Beh, nei piani di sotto è chiaro, anche io abitavo, quando abitavo al terzo piano, in via Milano, ero più fresco, ma in mansarde e cose del genere c'è da scoppiare, se non si è organizzato con condizionatore eccetera è un guaio. E già lo so, negli anni passati già era così. E cosa stai combinando qua? Nulla, niente, sono ancora a riposo, dovrei rientrare dopo il 22 e poi vediamo. E come a riposo? Che cosa hai avuto, qualche problema? Io ho avuto una distorsione alla spalla al lavoro e quindi sono ancora in fase di ripresa, vedo. Convalescente, via. E io, convalescente, diciamo convalescente. Ce n'è per tutto, ma Marco te l'aspetti se capita una cosina e poi rimane a piedi. Vabbè, comunque, purtroppo queste cose capitano. Uno sta lavorando soggetto anche a queste situazioni. Succede chi lavora, certo, ma già succede anche a chi non lavora, molte volte ti capitano degli piccoli incidenti che ti fai male, pur senza far niente, anche camminando per strada, cadi, metti il piede male e ti sbatte la testa, eccetera, eccetera. Sto uscendo un po' così. Anche adesso è un apparato vecchio, un po' gracchioso, capito? Non è sicuro, rimane titubante quel messaggio, gracchia, sembra boh. Ma anche adesso sto uscendo male o sto uscendo bene adesso? No, adesso quest'ultimo no. E intanto c'è il microfono che fa i capricci. La radio vecchia è vinto. Ma le vecchie molte volte funzionano meglio delle nuove. La persona è rubata, le fende che danno dai vinti. Di tutto il colore se ne sente. Allora, anche le radio vanno cercate, non ti hanno fatti, vinto. Allora bisogna trattare la vecchietta, avere allora, quello vacculino e vedi che funziona bene. E va a passeggio, farsi una passeggiata. E allora, ecco la ci vuoi fare, purtroppo. Così è. Ma giorni fa stavo sentendo che era deceduto un CB, com'è questa storia? Era deceduto un CB, l'unico CB, l'ultimo che è deceduto è Mario Mao. L'ultimo era lui, mi è sembrato di aver sentito che c'era uno che era, si è sentito non so che cosa, forse ho sbagliato. No, è morto, non so, se l'hai sentito, figlio di Torre, che lo c'era la pizzeria via Pascoli. Non mi aveva baracchino quello. Ah, no, non mi è sembrato di aver sentito una cosa del genere, perché l'ho acceso, sono rimasto in ascolto qualche istante, però non ho capito bene, poi mi hanno chiamato, sono dovuto andare via, quindi non ho capito bene la cosa, deve essere quello lì allora. Se quello lì è giovedì mattina, e ieri c'era il funerale a mezzogiorno, e deve essere quello allora, stavamo parlando un po' perché io quando ne vi appascoli lo conosco e quindi stavamo parlando di quello. Ma Vincente Stradale? No, peggio. Il peggio Vincente Stradale, che cosa c'è di peggio? Che da cosa, la vicinietta. Ah, ho capito, la bianca, va. Allora, quindi adesso stanno facendo tutte le indagini, come, perché, ma cosa vi dico? E quando uno assaggia quella questione è grave, purtroppo poi non c'è più niente da fare. Ma infatti, non c'è stato proprio più niente da fare. Io ho conosciuto un ragazzo, un giovane, una quarantina d'anni, che era poi tra l'altro anche sposato, con una ragazza di Ussi, e c'aveva, non so se l'hai conosciuto, in via Duca di Abruzzi, un certo Masala, che aveva il distributore della Chevron. Tu stai parlando di Gianfranco. Di Gianfranco, io, siccome frequentavo il Beverly Hills, che poi ci si trovava qualche volta lì, anche tu trovi beccato qualche volta in quel locale, in quel circolo, lui frequentava la notte, io lo vedevo sempre lì, ho detto, ma cosa caspita sta facendo questo? Poi una sera, mi è capitato, mi hanno chiamato per fare una suonatina, e l'ho beccato lì di nuovo, caspita, qua si abitua, perché io, andavo per farmi la mia bevutina pomeridiana e mattiniera, ma di notte no, a meno che uno mi chiamasse appunto per fare qualche serata, e l'ho beccato di nuovo lì, poi a un certo punto mi sono anche riuscito e ho fatto qualche richiesta a di chi dovere, e mi diceva appunto che faceva quella situazione. Dopo poi è sparito la circolazione, è andato a San Patrignano, non è fatto niente, è tornato, ha ripreso, a terra. Gianfranco l'ha trovato morto nel suo appartamento lì dove c'era il fornitore. Praticamente dopo che hanno battuto il fornitore e tutto, lui aveva preso la casa lì. Capito? Io lo so. Quando si entra, hai detto bene, in quel giro non è facile uscirne, hai detto. Ma lo sai cosa ti dico? Che sta succedendo un po' anche al fumo, le sigarette non sono più le sigarette di una volta, il tabacco, praticamente stanno assumendogli una sorta di droga. Infatti prima si riusciva a smettere di fumare, adesso qualche ne conosco non riescono, evidentemente stanno inserendo nel tabacco qualche prodotto di quel tipo lì ed è difficile smettere. Lo so, però se la gente c'ha il vizio, cosa vuoi fare tu? È difficile, deve avere solo culo fermo e capito? Ma più che culo fermo deve avere forza di volontà, ma la forza di volontà adesso la gente, però se nel tabacco adesso ci stanno mettendo questi prodotti che sono più forti, più vai avanti, più ti incallisce, non ce la fai a smettere. Quindi uno dovrebbe quantomeno pensarci adesso, che ancora magari non sono dosi forti, perché sono sicuro che nelle sigarette ci stanno mettendo delle droghe. Sicuramente sì. Ma lì c'è tutto un sistema, bisogna vedere come, quando e perché ho visto, capito? Lì c'è un giro e bisogna vedere che cosa è successo internamente e perché lui si trovava lì, se c'era apposta per fare comunella o se ce l'hanno portato per finirlo, capito? Senz'altro le indagini poi andranno avanti, non lo so come sia successo, io non so niente di questo personaggio che stai parlando tu adesso, so soltanto che quando si entra in quelle cose lì non, ne conosco tanti, della verità, che sono però partiti. Non è che uno va, poi va a disintossicarsi e rientra alla norma, no. Una volta che ti immergi, sei bagnato e non riesci più ad asciugarti. E ci conferma, ma rovesciate, una volta che ti bagni lì, rimani bagnato, Vito, non c'è scritto di risalire. Sì, però c'è anche un piccolo ragionamento da fare. Perché questi, sapendo che... Perché prima non c'era informazione, parlo degli anni 60, degli anni 70, ancora, ma oggi con l'informazione, sapendo che trattando poi questi materiali non ne cade i piedi e ti porta alla morte, perché lo fai? Mi rivolgo sempre a quel discorso là. Prima non c'era l'informazione, e sono d'accordo, anche se c'era lo stesso, però era il minore. Ma oggi lo sanno anche le pietre, siamo stufi di saperlo. Perché cosa lo fai? Allora vuoi affrontare proprio, vuoi sfidare, sfidare la morte vuoi, è tutto qui. Sì, infatti, è una sfida, Vito, è una sfida che questi ragazzi lanciano sulla propria pelle, però poi certo ci rimangono e ci lamentano, capite? Genitori, ma come mai, ma qui, ma là, ma non è vero, ma è migliore non faceva questo, ma cosa ne sai tu, cosa ne sai tu, ma tedoci. Io mi voglio non errare, i giovani d'oggi, poi specialmente poi giovani, non perché sono bambini, ma adesso non gli voglio dire niente, perché anch'io ho figli grandi. Però anche i ragazzi di 25 anni sono bambuccioni, come, appunto come stavano dicendo qualche politico, sono bambuccioni, 25 anni, ti fanno certi discorsi. Io proprio giorni fa stavo parlando con uno, ma non ti vergogni di parlare in quella maniera lì, ma non te ne accorgi che sei un bambuccio dell'asilo, così parlano i due decenni. No, no, tu hai 25 anni, se vuoi vergognare. Ci sono quelli che parlano a bambola molto, ma 25 anni si credono già maturi, già grandi, e invece ancora devono soffrire tanto, imparare tanto dai genitori e dalle persone più grandi di loro. Però i tempi sono cambiati, Vito, non è più come eravamo ragazzi noi, che avevamo una preparazione molto più alta di adesso. Adesso tutti già piantoni, tutto già niente, non c'era un cazzo. Tutto sanno loro, tu non puoi discutere niente, tu sono esperti, sanno tutto. Gli ho fatto un ragionamento, ma ascolta un attimo, io ti voglio dire una cosa. Tu, quando avevi 10 anni, che cosa sapevi? E faceva così con gli occhi. E quando ne avevi 20, ne sapevi più di quando ne avevi 10. Ecco. E quando ne hai 30... ne sai più quando ne avevi 20. E io che nasce un trippo di te, cosa devo fare? Ma infatti poi non accettano neanche i consigli, non accettano niente, sembra che tutto gli è dovuto, che tutto devi fare, capito Vito? Negoci, vabbè, pazienza, tanto ormai non si cambia più, Già ci sono i ragazzi educati, quelli che sono cresciuti in famiglie che i genitori li hanno tenuti sempre a guinzaglio, quindi questi problemi, ma sono, quello che posso dire, il 2%, il 92% sono dei randaci, ma proprio con il vero senso della parola. E quindi io mi chiedo perché questi ragazzi devono comportare così, che cosa credo di fare? E sono in perdita, è una società tutta quanta andata col paese, non so cosa succede, probabilmente però è... E questo è dovuto anche al governo che ci ha procurato questa situazione. Prima a scuola ti picchiavano con la bacchetta, oppure ti prendeva calci in culo il professore. Adesso se si azzarda solo a farti un riguardo così, viene denunciato. Ecco, questa è la legge. Vito, scusa che mi ha scattato la luce. Certo, capo, ho capito che c'è stato qualche problema. Perché ha attaccato un elettrodomestico in più e quindi a quest'ora siamo ora di punta. E niente, va bene, ok. Mi allontano un attimino, che mi sta facendo qualcosa a mia moglie, infatti ho tirato su il salvavita e poi sono venuto a dirtelo. Se ci sei, ci sentiamo tra 10 minuti, ok? Ah, non c'è problema, io lo lascio accendere, tanto poi se magari mi distraggo. Comunque io sono qua, dai, a dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao.